una preghiera. Signore, preservami dall'abitudine di pensare che devo esprimere un'opinione su ogni argomento e in ogni situazione. Toglimi il desiderio ardente di sistemare gli affari degli altri. Libera la mia mente dalla elencazione degli infimi dettagli e dammi ali per arrivare al dunque. Ti prego di accordarmi la grazia di saper porgere orecchio alle altrui sofferenze. Aiutami a tollerare con pazienza, ma suggella le mie labbra sui miei dolori e sulle mie pene. Stanno aumentando, il piacere di enumerarli diventa più intenso col passare degli anni. Mantienimi ragionevolmente dolce. Non voglio diventare un santo, i santi hanno un carattere così difficile a volte. Per questo è più estenuante vivere con un santo che esserlo meno, ma un vecchio inacidito è una delle supreme opere del diavolo. Dammi la capacità di vedere cose buone in luoghi inattesi e talento in persone insospettate. Dammi, Signore, la capacità di dirglielo. Prendimi assorto, ma non lunatico, servizievole, ma non prevaricatore, con l'ampia riserva di saggezza di cui dispongo, mi sembra un peccato non usarla affatto. Tu sai, Signore, che in fondo vorrei riuscire a tenermi qualche amico.